Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Buongiorno, c'è una domanda, quanto mai retorica, che mi pongo da quando sono stati pubblicati i risultati delle elezioni. Perché i leghisti non vincono a Lecco e a Venezia? Perché il PD non vince a Bettola, paese di Bersani? E l'IDV non vince a casa di Di Pietro? In sostanza, perché non possiamo avere un politico che possiamo chiamare il nostro rappresentante, come accade negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri stati? Perché io non posso avere una persona che vive a pochi chilometri da casa mia, che sia il mio rappresentante al quale potermi rivolgere per segnalare problemi o sottoporre istanze? Perché Virginio Rognoni di Pavia si è candidato altrove? La risposta, da pavese quale sono, la potrei dare, ma penso che la si possa immaginare. Perché in Italia possiamo avere frutta e verdura a chilometri zero, ma i politici si candidano nel punto più lontano da casa loro? Noi cittadini abbiamo le nostre risposte a queste domande e forse è per questo che nascono e fioriscono i movimenti di protesta. Luigi. Caro Luigi, è vero, talvolta i politici si candidano lontano da casa e quando si candidano a casa loro vengono sonoramente sconfitti, come nel caso in queste ultime elezioni di Brunetta a Venezia e di Castelli a Lecco. La sua maliziosa interpretazione può essere tradotta così: se li conosci, li eviti. Ma è un'interpretazione maliziosa e, se mi permette, anche sbagliata, perché i nuovi sindaci di Venezia e di Lecco sono anch'essi ben conosciuti nei loro comuni. Credo allora che l'interpretazione sia un'altra. A Venezia e a Lecco hanno preferito un sindaco a tempo pieno a una personalità famosa, ma già impegnata a livello politico. E quindi ha prevalso proprio il rappresentante locale. È questo il bello della democrazia. A decidere alla fine sono sempre i cittadini. Ho sentito parecchi commenti sulle elezioni, ma solo da due persone ho sentito qualcosa degno di essere ricordato: da Nichi Vendola e da Beppe Grillo. Entrambi hanno detto che i partiti, come li abbiamo sempre intesi, sono morti, defunti per sempre. Prima te ne accorgi, meglio è. Bersani non l'ha capito, ma neanche il centrodestra l'ha ancora capito. Le sconfitte di Castelli a Lecco e Brunetta a Venezia, in regioni a maggioranza leghista e di centrodestra, sono la conferma della tesi Grillo-Vendola. Anche le forti astensioni sono un segnale che, così com'è adesso, il modello politico non funziona più. Capire ciò che sta cambiando e magari non ci piace molto è una delle cose più difficili. Il modello del partito come istituzione monolitica governata dall'alto, così come sono la maggioranza dei partiti oggi, sta perdendo smalto. Si va affermando un modello politico a presa diretta, dalla base, e Internet farà la differenza. Sono finiti i tempi dei vecchi partiti che, dopo la delega dei cittadini, si sentono autorizzati a fare quello che gli pare. Vedremo ancora parecchi fuochi d'artificio nei prossimi anni, perché i 3 anni di stabilità che molti si aspettano sono solo una chimera. Le riforme decise dall'alto, se non sono in sintonia con quanto si aspettano i cittadini, saranno la crepa che farà crollare questo modello di completa delega, che ormai è vecchio e obsoleto e non più attuale. Andrea. Caro direttore, onore alla Lega e alla lista Grillo. Due movimenti così diversi, ma che accomunano un modo di fare che tutti gli altri, il PD in primis, hanno sistematicamente e stupidamente abbandonato. Parlo del contatto con la gente, parlo della chiarezza e della capacità di mettere sul tavolo le proprie idee dure e pure, senza compromessi. Lega e Lista Grillo sono due movimenti che si presentano alla gente che si trova al loro stesso livello, con programmi e idee chiare che tutti possono capire e discutere. Detto questo, vorrei chiedere ai dirigenti del PD se anche oggi ci diranno: questa tornata elettorale ci deve far pensare, riconquistare il contatto con il popolo e il messaggio che gli elettori ci hanno mandato, eccetera. Lo chiedo perché questa sarebbe la terza volta che ce lo dicono. Io invece vorrei dire loro: se non siete capaci o non ne avete voglia, fatevi da parte, perché in mezzo ci siamo noi. Vorrei anche non sentir dire che bene o male abbiamo vinto perché in certe regioni abbiamo guadagnato uno 0,0001%. Vorrei invece sentire un bel comunicato con un chiaro e sincero mea culpa, seguito da un progetto che inizi dal lavoro, poi le famiglie, poi le scuole, le infrastrutture e via dicendo. Rudy. Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ha fatto un'analisi concreta e sensata della sconfitta del PD alle elezioni regionali. Le sue considerazioni sono: occorre più coraggio nella scelta dei candidati, da realizzarsi possibilmente attraverso le primarie. Il caso Vendola in Puglia dimostra che attraverso le primarie si è evitato di gettare al vento un'esperienza positiva, scegliendo nello stesso tempo un candidato vincente. Emma Bonino ha perso, nonostante il caos liste che coinvolgeva la sua avversaria, perché si è occupata più della raccolta firme in Lombardia o dei radicali, invece di fare campagna elettorale sul territorio, dove era candidata alla presidenza di regione. Le scelte fatte dalla dirigenza di partito senza consultare la base attraverso le primarie si sono dimostrate fallimentari. I candidati devono rispondere in maniera efficace alle esigenze del territorio. Questa è l'unica bussola che deve far selezionare le persone da candidare. La nuova dirigenza PD, che sta nascendo con fatica, aggiungo io, deve essere più decisa nell'imporre alla dirigenza attuale le proprie visioni sul paese. Quella espressa dal sindaco Renzi è finalmente una ventata di serietà, concretezza e onestà intellettuale. Se non si seguirà la strada da lui indicata, il PD è destinato a scomparire, politicamente, elettoralmente e nella società. Mentre gli altri esponenti del PD dicono di non aver vinto, ma di non essere stati nemmeno sconfitti, consolandosi con un'inversione di tendenza notata solo da Bersani, finalmente si è visto in Renzi un esponente del PD capace di analizzare ed esprimersi con onestà intellettuale. Secondo il mio modesto parere, la rinascita del PD deve fondarsi su due principi. La strategia del partito deve basarsi sulla vocazione maggioritaria. Nessuna alleanza né con Di Pietro né con la sinistra di Vendola né con l'UDC. Se si vuol far crescere un vero partito riformista di sinistra, la strada va percorsa in solitudine e con chiarezza, sapendo che per alcuni anni si verrà estromessi dalle leve del potere. Bisogna poi ritornare sul territorio, come già fa la Lega, ascoltando le necessità concrete dei cittadini, tutti i cittadini, senza distinzioni di classe o appartenenza politica, realizzando un programma di governo locale e nazionale che senza estremismi proponga una politica riformista. Per fare ciò non occorrono né TV né giornali, occorrono giovani che ascoltino il territorio. Se ciò non avverrà, il partito è destinato a morire di asfissia e la colpa sarà delle nuove leve, incapaci di avere il coraggio di farlo rinascere. Massimiliano. Chi ha vinto? Tutti? Nessuno? Pareggio? X sulla schedina? Ma che, signori, siamo seri una volta. Ecco le dichiarazioni degli esponenti del PD. Beh, in fin dei conti continuiamo ad avere la maggioranza delle regioni che erano andate al voto. Quante regioni Basilicata servono per raggiungere il numero dei votanti nel Lazio? Ho trascorso il pomeriggio di lunedì incollato al sito del Ministero degli Interni, cercando di analizzare l'andamento dei voti e dei votanti. Nel Lazio è evidentissimo il disagio degli elettori della provincia di Roma, con l'assenza della lista PDL, mentre nella provincia di Latina la stessa sfiorava il 64%. Nella regione Emilia-Romagna il presidente Errani, rispetto a 5 anni fa, perde consensi in termini percentuali, mentre la cosa che fa più pensare sono le candidature di rassegnazione fatte da entrambi gli schieramenti. Vedi le figure presentate in Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche per il PDL, e per il PD quelle di Lombardia e Veneto. Domanda: una candidatura più forte riuscirebbe forse a dare qualche brivido in più a una consultazione che a volte sembra già scritta? In conclusione, da questa tornata elettorale si evince un dato molto chiaro. La gente vota atturandosi il naso, senza distinzione, sia a destra che a sinistra, in attesa che qualcuno illustri i programmi di governo. William. Ho una domanda che è un mio dubbio personale. Di fronte ad atteggiamenti censurabili, per non dire peggio, di personaggi noti e anche eccellenti nel loro lavoro, ma per il resto capaci di stupidità inenarrabili, è meglio ignorare e non dare seguito? Oppure è un dovere civile fare sapere come la si pensa e contrastare certi comportamenti? Mi riferisco, ad esempio, al comportamento tenuto dall'architetto Fuxas nei confronti di Bertolaso, rispetto al quale mi sembra che eventuali colpe siano tutte da dimostrare e che, se anche fossero dimostrate, non sarebbero certo tali da togliergli ogni diritto civile e umano. Come si fa a dare del fascista agli altri quando si vorrebbe fare sparire dalla faccia della terra chi non ci piace? Andrea. Ho ascoltato la puntata di 9 in punto che ospitava il chitarrista Giovanni Baglioni e ho avuto un tuffo al cuore, per il quale vi ringrazio. Ero nel mio studio, circondato da una novantina di strumenti a corda provenienti da tutto il mondo, fra i quali 20 chitarre. Li scovo su eBay, li ripulisco, li aggiusto, li accordo. Ma a 52 anni non ho la pretesa di suonare seriamente. Sì e no, strimpello. Ho scoperto centinaia di strumenti con nomi impossibili, ma in tutto il mondo le corde vibrano e fanno vibrare allo stesso modo. C'è una cosa però che mi lascia stupefatto. Ho cercato in una libreria che era grande come un campo da calcio un libro sull'argomento cordofoni. Zero, nulla, deserto. Come mai? In questa libreria ci sono ettari di libri, per qualsiasi argomento. Accendini sovietici, tatuaggi, begonie. Qualsiasi cosa ha uno scaffale dedicato. Per la musica, in un angolino, oltre alle biografie della Pausini, di Ligabue e qualche altro, qualche volumetto messo lì, tanto per completare il ripiano. Cordofoni? La giovane addetta al computer mi chiede come si scrive. Strumenti musicali a corda? Forse dovrebbe provare su Google. Bella scoperta. Lungi da me il lamento che in Italia non si trova mai niente. Ma dico io, è mai possibile che non ci sia un editore che almeno provi a tradurre un qualche manuale americano, con qualche bella illustrazione? Uno lo comprerei io, ma sarei proprio l'unico in Italia. Non c'è qualcun altro a cui interessa come è fatta una viola da gamba, un bariton, un bazzantaro, anche una gadulka, un gukin? Perché no? Ci sarà qualche giovane che ha il sospetto che oltre alla chitarra elettrica e alla batteria forse c'è qualcos'altro da picchiare per ricavarne dei suoni? Grazie ancora per la bella musica. Alberto. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.